ed io non so cosa cerco, una battaglia di navi, un pesce con la bocca aperta, un fardello troppo pesante, una luna rossa che spiuma, sento gli angeli chiamarmi alla pietà al suo lato destro, dolce, rotta, stanca. Sento gli strilli degli angeli chiedermi la pietà dove nessuno gli bada o la riconosce. Gesù che gridi, Gesù che scrivi, Gesù che maledici la lebbra, la mia ulcera da scrivana. Sento gli strilli degli angeli che bramano, sento la pietà afferrarmi.